Marco Melloni, ben ritrovato al Radioteatro su Onda Rossa. Ciao, come state? Bene, tu? Bene, grazie. Un nuovo capitolo della storia, Voci nel deserto, all'Angelo Mai il 2 dicembre. Per chi ci ascolta, dacci più indicazioni possibili rispetto a questa nuova tappa. Alle 21:30 inizieremo, sarà un grande evento, una data unica che abbiamo organizzato a ridosso del referendum, ovviamente per parlare di Costituzione, che è uno dei temi che ci hanno seguito dal 2009 a oggi e che abbiamo più toccato, quindi faremo un meglio di frammenti legati al passato e che ancora oggi sono attuali e che parlano di Costituzione. Dopodiché la sintesi, insomma, la farà il pubblico, che sarà numeroso da quello che ci dicono, perché sembra che ci siano molte adesioni. E l'ingresso come sempre è gratuito e subito dopo c'è il DJ set del nostro DJ Tuppi, per cui si ballerà fino a tardi. Insomma, sarà un bel appuntamento come al solito, carico di energia e di divertimento, speriamo, oltre che ovviamente di riflessione. Senti, sarà anche occasione, questa è una curiosità che mi è venuta in mente sentendoti, il secondo volume rispetto al primo libro che avevate pubblicato con le vostre raccolte di pensieri? Sì, questa è una piccola sorpresa che volevamo fare innanzitutto a tutti gli attori che hanno partecipato a Voci nel deserto in questi 7 anni, che riceveranno una copia della summa, praticamente, dell'archivio di Voci nel deserto. Sono oltre 600 frammenti indicizzati, divisi per argomento, eccetera. Sì, l'abbiamo pubblicati per la prima volta in auto self-publishing, per cui ce li siamo pubblicati da soli. E ovviamente il libro sarà a disposizione e sarà presentato in occasione di questo evento, ed è veramente, insomma, un bel prodotto, e dentro si parla di tutto veramente, cioè sì, ognuno sarà in grado di costruirsi il proprio spettacolo di Voci nel deserto utilizzando questi frammenti che a questo punto rendiamo pubblici. Senti, per chi ci ascolta e non conoscesse il progetto, raccontiamo un po' quali sono le caratteristiche di Voci nel deserto e anche quali saranno le tappe prossime, successive. Sulle tappe successive questo proprio non so rispondere, okay. Perché noi ci aggreghiamo nel momento che c'è un'esigenza dal punto di vista dell'attualità, per cui parliamo sempre dei fatti del momento. Sì. Quando c'è bisogno di Voci nel deserto c'è sempre, anche per chiunque, e c'è in che modo? Sempre gratuitamente, sia per chi lo fa che per chi riceve, per chi insomma partecipa come pubblico. È un progetto che è nato nel 2009 quasi spontaneamente, raccoglie solo a Roma una settantina di attori, c'è in molte città d'Italia, c'è stato a Parigi, c'è ancora a New York, ed è una specie di, non lo so, di collettivo teatrale che si riunisce appunto come volontariato teatrale per parlare di temi di attualità importanti. E come lo fa? Lo fa attraverso dei frammenti di scritti nel passato di grandi autori che ancora oggi sono estremamente attuali. Con questi frammenti si compone una partitura composta appunto dai frammenti portati in scena dagli attori, video, la musica del DJ, e per un'ora e mezza circa, un'ora e un quarto, un'ora e mezza si segue, diciamo, il filo del pensiero che è stato già portato, diciamo, scritto nel passato e che ancora oggi è attuale. La sintesi ovviamente è che purtroppo commettiamo sempre gli stessi errori, quindi la storia si ripete e forse dovremmo cercare di ricordarcelo, insomma, per il futuro almeno. Senti, gli spazi web sono sempre quelli? Sempre su vocineldeserto.it, il nostro sito, c'è una pagina Facebook dedicata, ovviamente sulla pagina Facebook dell'Angelo Mai, che voglio ringraziare già adesso perché ci hanno veramente accolto per la prima volta a braccia aperte, con grande disponibilità, insieme, grazie a loro, insomma, che riusciamo a fare questo evento il 2 dicembre in questo modo e con tali mezzi e con grande partecipazione anche di attori, insomma saremo veramente tanti anche in scena. Senti, ci sono progetti ai quali stai lavorando in questo momento dal punto di vista teatrale, Marco? Esterni a Voci nel Deserto no. In questo momento no, sto facendo altre cose televisive, ma non il teatro purtroppo. Lo dedico soltanto a questo progetto, in questo momento mi dedico solo a questo progetto dal punto di vista teatrale. Benissimo. E adesso stiamo provando a portarlo su a Milano e stiamo iniziando a raccogliere un po' di adesioni, e perché ovviamente la formula è un po' particolare, insomma ci muoviamo proprio al di fuori del mercato, insomma stare in piedi non è facile, però insomma questa utopia già si è realizzata a Roma, quindi si potrebbe realizzare anche a Milano, dove mi trovo in questo momento. Benissimo, allora un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, Federico, un abbraccio a tutti. Ciao. Vi aspettiamo il 2. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao.